Ora passiamo subito alle comunicazioni e la prima comunicazione è tenuta dalla dottoressa Graziella Rotta. Io leggo Università di Milano, il che è vero perché è dottoranda di ricerca all'Università di Milano, ma a me piace dire Università di Pisa, perché lei ha lavorato con noi e in particolare il riferimento che io facevo prima agli studi sul Versuch de Fichtiano sotto la Leitung del professor Cesa, proprio pensava a lei mentre facevo un'affermazione di questo tipo. Ci parlerà, il tema della sua comunicazione è la ricezione di Kant nella disputa sull'ateismo degli anni 1798-1799. La parola alla dottoressa Rotta. Sì, allora, io appunto faccio questa relazione sulla ricezione di Kant nell'ateismo strait, distinguendola in due parti. Da una parte ricezione di Kant da parte di Fichte, o meglio la discussione di Kant nel pensiero religioso di Fichte, e dall'altra la vera e propria ricezione di Kant nella disputa sull'ateismo da parte di quei numerosi contemporanei che intervennero in questa disputa. Tutto va fatto in 15-20 minuti. Sì, sì, io cercherò di essere brevissima per affermazioni secche. Intanto io vorrei fare una brevissima presentazione dello strait. Una brevissima presentazione dello strait che ha inizio nel 1798, quando il Philosophisches Journal diretto da Fichte e Niethammer pubblica un saggio di Friedrich Karl Forberg, che era noto come kantiano, sulla Entwicklung des Begriffs der Religion, in cui si sostiene una concezione completamente morale della religione che viene identificata con una fede pratica in una moralische Weltordnung e viene distinta dalla fede teoretica intesa come un tipo particolare di credenza, di Fürwahrhalten. La religione consiste per forma unicamente di massime morali ed è fondata solo sulla coscienza, sul Gewissen, e dunque essa non impone di credere alla realizzazione di quel regno della giustizia, di quel regno della giustizia al quale l'uomo tende per natura, grazie alla sua natura morale, ma impone soltanto di agire come se, e su questo argomento dello Alsob avrebbero poi insistito alcuni interpreti come Fainger, di agire come se si credesse che tale ordine troverà effettivamente una realizzazione futura, tale ordine morale. La religione dunque è l'unico criterio della religione, dunque è la virtù, la fede nella eternità della virtù, la fede che ci sarà sempre virtù sulla terra, la fede, e quindi questa concezione della religione ammette tranquillamente un ateismo speculativo, diciamo così. Anzi, direi che l'atteggiamento speculativo di Forberg nei confronti della religione è proprio un atteggiamento che io definirei scettico, nel senso che alla domanda se esiste Dio, Forberg risponde: non posso rispondere, non so rispondere, anzi probabilmente questa domanda richiede una risposta negativa. In ogni caso la religione è solo fede in un ordine morale, di Dio non possiamo sapere nulla. E se noi volessimo osservare la natura o l'ordine morale nella natura attraverso l'uomo e dedurne l'esistenza di Dio, questo è scorretto. La natura ci permette tutt'al più di dedurre una satira sull'esistenza di Dio, ma non cioè una satira su Dio, ma non una dimostrazione della sua esistenza. Presentando questo articolo al Philosophisches Journal, Forberg invitava esplicitamente Fichte a prendere posizione sul tema religioso, cosa che Fichte fece, come noto, pubblicando in apertura nello stesso numero della rivista il proprio saggio sul fundamento Über den Grundunseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung, in cui prende le distanze da Forberg, precisando innanzitutto in quale senso vada intesa la prova morale dell'esistenza di Dio, che egli riprende da Kant e che confermerà, come confermerà in tutti gli scritti dell'ateismo strait. Allora, intanto Fichte sostiene che la prova morale dell'esistenza di Dio non va considerata una dimostrazione dell'esistenza di Dio. La filosofia non ha il potere, non ha un potere di tanto, non può dimostrare l'esistenza di Dio, ma può soltanto dedurre un fatto che è universalmente diffuso tra gli uomini, e che è la fede in Dio. Questa deduzione però non, come appunto in maniera coerente rispetto alle premesse kantiane, questa deduzione può fondarsi soltanto sulla natura morale dell'uomo, la quale però ci consente unicamente di dedurre la fede dell'uomo in un ordine morale sovrasensibile. Questa fede è data all'uomo direttamente dalla sua natura morale, nel senso che riproponendosi un fine ultimo morale che consiste per Fichte nell'affermazione universale della ragione e della moralità, ed essendo la rappresentazione di tale fine il movente della propria determinazione morale, l'uomo deve considerarne nello stesso tempo possibile la realizzazione. La realizzazione dunque in un ordine in cui le azioni morali degli individui siano, come dice Fichte, portate a compimento, siano compiute, siano iscritte in un ordine in cui tutto procede secondo la moralità. L'unica fede che la filosofia può dedurre è questa, è la fede in un ordine morale sovrasensibile, e non è invece legittimo dedurre da questo ordine morale sovrasensibile l'esistenza di un Dio inteso secondo i suoi attributi tradizionali come un Dio personale dotato di coscienza, di volontà, creatore della natura e così via. Il divino per Fichte si identifica con questa moralische Weltordnung, e in questo senso, poiché dipende direttamente dalla natura morale dell'uomo, poiché questa fede nasce nell'uomo contemporaneamente alla sua coscienza morale, l'esistenza di Dio, appunto come moralische Weltordnung, rappresenta contro Forberg la nostra massima certezza. Dunque, dicevo, non è possibile, secondo Fichte, però, dedurre da questo ordine l'esistenza di un Dio personale. Questo è un tema che Fichte, che non è nuovo nel pensiero fichtiano, che egli aveva già espresso nelle lezioni tanto del 96 su Dio e l'immortalità, quanto nelle lezioni su Plattner del 97. Ogni pretesa, ma già era anticipato nello scritto sulla rivelazione del 92, ogni pretesa di pensare Dio coinciderebbe con la pretesa di attribuire le categorie del pensiero umano, che sono invece riferibili soltanto agli oggetti dell'esperienza. Dunque pensare Dio vorrebbe dire limitarlo e in particolare attribuirgli quelle caratteristiche che sono proprie dell'uomo, cioè la coscienza, la volontà e così via, vuol dire semplicemente riprodurre nel proprio pensiero, come dice Fichte, l'idea dell'uomo, e quindi vorrebbe dire negare la natura di Dio. E questo è, per quanto riguarda, cioè, nei confronti della religione, quello che Fichte considera il vero punto di vista trascendentale. Insomma, Dio è un'idea interna all'uomo, così come il mondo è un concetto interno all'uomo, e io nel dire questo sto facendo riferimento alle lezioni, in particolare del 97 che ho citato. La differenza è che mentre il mondo viene percepito, è oggetto di una Wahrnehmung, può divenire oggetto di esperienza, dunque noi possiamo pensarlo e conoscerlo secondo le sue leggi, dunque, poiché queste leggi sono poi le stesse che la ragione prescrive alla nostra esperienza, dunque a noi è possibile una scienza della natura, lo stesso non si può dire di Dio, che non viene percepito, che è solo oggetto di un'idea, e dunque Fichte nega, appunto già nel 97, ma poi confermerà negli scritti nella disputa sull'ateismo, nega che la dottrina della scienza possa convivere con una Gotteslehre. Queste affermazioni fichtiane, in particolare l'identificazione di Dio con la moralische Weltordnung, la negazione che a Dio si possa attribuire un carattere sostanziale, suscitarono ampie e violente reazioni nel mondo filosofico e teologico tedesco. Poi nell'arco di circa 2 anni, di meno di 2 anni, uscirono circa un'ottantina di scritti, di cui una buona metà volumi indipendenti sull'argomento, che attaccavano l'ateismo di Fichte, e qui è il punto interessante, quasi sempre facendo riferimento a Kant. In parte lo attaccavano dal punto di vista della tradizione teologico-metafisica, e allora accomunavano l'ateismo di Fichte con quella che veniva considerata la sua premessa inevitabile, necessaria nella filosofia critica. In parte invece veniva attaccato dal punto di vista di quei kantiani moderati che citava il professor Cesa, e contrapponendolo quindi a quello che via via consideravano questi kantiani il vero spirito della filosofia critica. Mi sono chiesta se dal momento che Fichte rivendica in più occasioni durante l'ateismo Streit, ma anche negli anni precedenti, la fedeltà, l'assoluta fedeltà del proprio pensiero allo spirito della filosofia kantiana, questo fece gioco durante l'ateismo straita agli avversari di Kant che indicavano nell'esito ateistico di Fichte, uno di questi è anche Jacobi, insomma, nell'esito ateistico di Fichte l'erroneità della filosofia fichtiana. Mi sono chiesta se questo... no. Bene, questo lo dirò più tardi. Sì, ma non è che il tempo cammina. Sì, ho visto. Quanto è passato? 10 minuti. 10 minuti. Va bene, allora adesso andrò rapidamente. La disputa sull'ateismo dunque rappresenta, coincide con una seria messa in discussione di Kant che a detta di tutti da partire da questi anni viene... messo appunto in discussione, si mette in discussione la sua indiscussa autorità nelle università tedesche e vorrei ricordare brevemente che lo stesso Kant intervenne nella disputa con la famosa Erklärung dell'Intelligenzblatt del 28 agosto 99 sull'Allgemeine Literaturzeitung di Jena, in cui si dissocia dalla dottrina della scienza considerandola mera logica e soprattutto respingendo la tesi che essa rappresenti un necessario compimento della sua critica. Queste affermazioni kantiane avrebbero ulteriormente alimentato la polemica contro Fichte, contenendo quel rimprovero, un accenno a quel rimprovero di idealismo assoluto che verrà poi costantemente riferito a Fichte, rivolto a Fichte in questi anni, e in cui si dirà che Dio e il mondo per Fichte sarebbero semplicemente una creazione da parte dell'io. Fichte reagì a queste affermazioni kantiane considerandole un arroccarsi dogmatico del vecchio filosofo sulle proprie posizioni e comunque l'episodio ebbe delle conseguenze comunque negative per Fichte che come noto perse la cattedra a Jena e diede poi una svolta al suo pensiero, insomma. La rivista venne confiscata dopo la pubblicazione di questo saggio fichtiano, gli autori vennero, i direttori vennero invitati a scrivere degli scritti di giustificazione giuridica, le cosiddette gerichtliche Verantwortungsschriften. Quella fichtiana ribadisce il proprio punto di vista sulla impossibilità di comprendere Dio, perché questo significherebbe limitarlo. A questo scritto di giustificazione giuridica Fichte ne fece seguire altri due, poi un terzo che venne pubblicato postumo, le Rückerinnerungen Antworten Fragen. A questo scritto Fichte ne fece seguire altri due, la Appellation an das Publikum del 1799, che fu poi il vero oggetto della disputa, e lo Aus einem Privatschreiben, pubblicato invece nell'Ottocento, quando ormai si era tutto, la disputa era diciamo finita, in cui Fichte tira le conseguenze di questo. Di tutta la vicenda. Un elemento va sottolineato dell'appellazione Andas Publicum che sarebbe stato rimproverato a Fichte poi in questi anni ed è il punto in cui nell'appellazione Andas Publicum Fichte chiarisce il significato di quello che egli definisce il proprio moralismo puro, facendo delle considerazioni sulla felicità e affermando, cito, che è folle aspettarsi da Dio l'elargizione di pene e ricompense sulla base dei meriti, perché un tale Dio sarebbe un idolo. L'uomo bisogna soltanto aspettarsi la beatitudine di ogni essere razionale, e questo è il nostro fine ultimo, ciò che noi dobbiamo riproporci, il contenuto della nostra determinazione morale. E invece, continua Fichte, non esiste alcuna felicità, l'attesa di essa da Dio è una chimera. Anche questo argomento non è nuovo, Fichte lo aveva già argomentato e forse meglio nelle lezioni degli anni 90, che però, del 97, che però i contemporanei non conoscevano così universalmente, e comunque appunto questa dottrina della felicità avrebbe poi procurato a Fichte l'accusa di stoicismo durante la disputa e soprattutto da parte di quei kantiani che vedevano nell'argomento fichtiano della felicità e non del tutto a torto un attacco all'argomento kantiano del sommo bene. Allora adesso vengo al punto di un paragone con Kant rapidissimamente, mi rendo conto. Dunque, come ho detto, Fichte rivendica l'assoluta fedeltà del suo pensiero allo spirito della filosofia kantiana e in particolare del suo pensiero religioso. Mi è sembrato quindi utile, prima di passare ad esporre le tematiche di personaggi che furono protagonisti della controversia, mettere a confronto la concezione fichtiana, di Dio e della religione con quella di Kant. Una prima questione, che una delle più dibattute, riguarda il corretto modo di intendere la negazione fichtiana del carattere sostanziale di Dio, per capire se per poter stabilire in quale misura e se essa possa essere considerata in qualche misura implicita nello spirito della filosofia critica. A questo proposito io ho voluto richiamarmi a un paio di passi dell'Opus Postum kantiano che sembrerebbero confermare la pertinenza, la correttezza di questo svolgimento fichtiano del problema di Dio. Devo premettere che tutto quanto dico, affermerò nell'Opus Postum, vuole rappresentare soltanto una frammentaria così, suggestione che ricavo da questo scritto, sapendo benissimo che esso è un vero e proprio, come disse Matthieu Ewald, der Widersprüche, nel quale, cito sempre Matthieu, quasi per ogni affermazione su Dio si può incontrare anche l'affermazione contraria, dunque io non voglio cavarne delle conseguenze sull'Opus Postum. In ogni caso vi sono due luoghi, nel primo e nel settimo convolut, dove Kant nega esplicitamente che la religione si identifichi con la fede in una sostanza di particolare santità, dignità e potere, e afferma, continuo a citare, che Dio non può essere rappresentato come una sostanza al di fuori di me, ma solo come il sommo principio morale in me. Come anche in Fichte, dunque, l'esistenza di Dio viene considerata da Kant un prodotto della ragione umana. Afferma Kant, Dio non è una cosa sussistente al di fuori di me, ma un mio pensiero, del quale è impossibile dimostrare la corrispondenza con la realtà. Il concetto di un tale essere non è quello di una sostanza, cioè di una cosa che esiste indipendentemente dal mio pensiero, ma è idea, creazione spontanea, Selbstgeschöpf, oggetto ideale, Gedankending, ente di ragione, ens rationis. Di Dio quindi, come per Fichte, non si può avere un concetto, perché i concetti, come Kant sottolinea in questi passi, possono essere riferiti unicamente alla realtà finita che l'uomo può percepire. C'è una citazione che vorrei fare, poi mi chiedo, che mi sembra particolarmente significativa. Kant afferma, l'idea, si può dire di Dio solo l'idea Dio, di idee Gott, e non l'idea di Dio, di idee von Gott, poiché in quest'ultimo caso Dio sarebbe un oggetto pensato come esistente. Dunque abbiamo una concezione, o comunque l'abbozzo di una concezione che è perfettamente coerente con quello fichtiano e che viene confermato anche questi passi erano dal primo convolut, vengono confermati anche dai passi del settimo, in cui Kant afferma di Dio che è semplicemente un moralisches Verhältnis in me avanza una concezione della religiosità come atteggiamento, modo di agire conforme alla coscienza, nel quale non è lecito acquistarsi il favore di Dio per mezzo di piaggeria, dice Kant, e questo richiama quasi letteralmente Fichte, direi. Ecco, un altro punto dell'Opus Postum, del settimo convolut, che vale la pena di citare, è quello in cui Kant ribadisce come l'affermazione esiste un Dio, sto citando, non indica la fede nell'esistenza di una sostanza, intesa come una realtà apprehensibiles, dice Kant, o come una realtà ipotetica, poiché egli non è un oggetto dei sensi, ma un assioma della ragion pura pratica, che pone se stessa come principio delle azioni. Dunque, e anche in Kant, dunque, si delinea così una concezione della religiosità fondata sul Gefühl, della presenza della divinità dell'uomo, come voce di Dio nell'uomo, tutte affermazioni che hanno in Fichte una rispondenza quasi letterale, ripeto. Dunque, dopodiché io avverto che a questa concezione di Dio nell'Opus Postum se ne accompagna un'altra in cui Dio ha carattere personale, ente sommo, somma intelligenza, sommo bene, dunque, ripeto, erano soltanto suggestioni che volevo ricavare. La cosa che invece va fatta è mettere a confronto lo svolgimento, gli sviluppi religiosi fichtiani in questi anni con le opere a stampa di Kant, in particolare le critiche. Il contesto a cui io mi riferirei è quello della teleologia morale, del rifiuto della prova fisico-teologica nella dialettica della critica della ragion pura e nei paragrafi conclusivi della critica del giudizio. È stato ricordato anche nei giorni scorsi come Kant riservi alla prova fisico-teologica un particolare rispetto per la sua chiarezza, cito, e la sua adeguatezza alla comune ragione umana, accomunandola però alle altre due prove teoretiche, a quella ontologica e cosmologica, che incorrono nell'errore di tentare una deduzione di una rappresentazione di Dio su fondamenti puramente speculativi. Kant afferma, il passo per via empirica alla totalità assoluta è assolutamente impossibile. Dato questo, però, Kant ammette una etico-teologia all'interno della quale è possibile concludere l'esistenza di una volontà in quanto di una divinità, scusate, in quanto volontà suprema unica dotata dei suoi attributi tradizionali, che gli verranno riferiti, come affermerà Kant nella Critica del Giudizio, soltanto per analogia. Comunque una divinità che domina la natura e ne garantisce l'accordo con la moralità. Come noto, dalla considerazione dell'uomo come essere morale, come scopo ultimo della creazione, deriva secondo Kant una concezione del mondo come una totalità finalisticamente connessa, come un sistema di cause finali. Ciò che permette di formare un concetto determinato di Dio come causa intelligente del mondo e supremo principio nel regno morale dei fini. Dunque, anche se solo su premesse morali, Kant giunge ad ammettere l'immagine tradizionale di Dio, cosa che invece Fichte su queste stesse premesse rifiuta. Si tratta di capire perché Fichte lo rifiuti. La differenza, e ora io corro veramente, consiste, la differenza che porta Fichte a questa conclusione contraria a quella di Kant, consiste nella diversa importanza accordata dai due autori al concetto di creazione. In Kant la creazione è resa necessaria dal bisogno di un accordo tra il mondo sensibile e la moralità, poiché sarebbe impossibile che una finalità morale prescritta all'uomo dal proprio dovere si attuasse in una natura che non fosse preordinata a tale scopo. Cito: sono contraddittori nell'uomo uno scopo finale interno prescritto come dovere e fuori di lui una natura senza scopo finale, in cui però quello scopo deve essere effettuato. In questo senso la nostra stessa ragione ci porta ad ammettere la fede, ad ammettere l'esistenza di un Dio come autore del mondo, come creatore del mondo e suo sovrano in base alla legge morale. Con la prova morale, dunque, Kant reintroduce gli attributi tradizionali avvertendo che senza mai innanzitutto affermare il carattere sostanziale di Dio e precisando come in ogni caso la pretesa di determinare l'idea di Dio ulteriormente rappresenti soltanto un eccesso di curiosità inutile. Per Fichte è il contrario. Nella considerazione dei rapporti tra moralità e natura, Fichte si muove in maniera diversa rispetto a Kant. Per Fichte, solo dopo che l'uomo vi ha agito, il mondo acquista un rapporto con la moralità e diventa una creazione divina. Egli accetta da una parte tutte le limitazioni poste da Kant alla prova morale, il fatto che questa prova possa essere soltanto appunto basata sulla morale, sulla ragion pratica, mentre però Kant resta bloccato in una sorta di dualismo che rende inevitabile un Dio, che sia nello stesso tempo legislatore in un regno morale dei fini e creatore, il capo legislatore in un regno morale dei fini e intelligenza e legislatore per la natura, Fichte supera questa antitesi kantiana considerando la natura il semplice riflesso dell'ordine morale, la natura che non esercita alcuna influenza sulla moralità e rappresenta semplicemente il comune terreno d'azione degli esseri razionali per il compimento del dovere. Nella natura, Fichte dice, non esiste una finalità esterna che ci porti ad ammettere l'esistenza di un suo creatore intelligente. E qui ipotesi che quindi si rivela teoreticamente inutile, così come si era rivelata moralmente inutile quando Fichte affermava che soltanto la fede in una realizzazione delle nostre azioni morali caratterizza la nostra fede in un divino. Penso che però la funzione di Dio, o comunque della moralische Weltordnung di Fichte e del Dio di Kant sia la stessa, questa è un'ipotesi che io faccio, entrambe mi sembra servano a dare un senso, una razionalità alla destinazione morale dell'uomo, permettendo la fiducia nel successo delle azioni virtuose, cioè compiute in vista di un fine che sia per Kant che per Fichte la ragione prescrive in maniera categorica all'uomo, prima di ogni ammaestramento religioso comunque. Senza la fede in un tale ordine, la prospettiva sarebbe quella indicata anche da Jacobi del nichilismo, della disperazione, insomma. E in questo senso anche la etico-teologia kantiana ha per Kant un uso immanente, serve ad adempiere la nostra missione nel mondo e non ad abbandonare da esaltati il mondo per rifugiarsi in Dio. Ora io passerei direttamente ai personaggi dello Streit rapidissimamente. Allora, fu il problema della possibilità di attribuire a Dio un carattere sostanziale, quello attorno a cui si concentrò maggiormente il dibattito sul presunto ateismo di Fichte. Il rimprovero che gli venne più frequentemente rivolto, sia dai suoi interpreti kantiani che dagli anticantiani, fu quello di deliberatamente fraintendere Kant, considerando la sostanza come un concetto riferibile soltanto alla realtà sensibile. La maggior parte dei personaggi kantiani e non che presero parte alla disputa concordano nel riconoscere a Kant e Fichte il merito di aver mostrato i limiti della ragione umana in riferimento a sovrasensibile, considerando la posizione di Fichte, come fecero soprattutto Jacobi e Reinhold, più coerente rispetto a quella kantiana rispetto alle premesse più coerente rispetto a quella kantiana proprio rispetto a questi limiti della ragione. La posizione di Jacobi e di Reinhold, in particolare quella di Jacobi, è proprio questa, che Fichte ha portato alle estreme conseguenze i limiti della ragione umana nella conoscenza del sovrasensibile, e la sua filosofia è approdata a un esito ateistico, a cui soltanto, dice Jacobi, una filosofia del puro Glauben può porre rimedio. Allora, i seguaci di Kant che attaccarono Fichte sottolineano per lo più come, dalla premessa dell'impossibilità di una prova teoretica dell'esistenza di Dio, Kant abbia potuto comunque concludere ad una concezione personale della divinità. Essi mirano per la maggior parte a dimostrare la possibilità di un'applicazione della filosofia critica alla teologia, partendo da un'analisi della concezione kantiana della conoscenza e rinnegando quello che considerano l'idealismo dogmatico di Fichte. Mentre Fichte asserisce l'impossibilità, infatti, di Dio come sostanza, Kant ne afferma solo l'inconoscibilità a livello teoretico, attribuendogli poi o recuperando poi quegli attributi tradizionali che gli attribuisce a Dio per analogia, come abbiamo visto. Sul carattere dogmatico di questa negazione fichtiana di un Dio sostanziale insistette in particolare l'autore, citato anche dal professor Cesa, Carl Christian Flatt, in quelle lettere sulla filosofia di Kant, Fichte e Forberg, pubblicate nel magazine für Christliche Dogmatikum Moral di Tubinga, nel quale sottolinea come Kant abbia profondamente avvertito la forza dell'idea di Dio nell'animo umano, riservando alla religione, che pure non contiene un sapere assertorio, una funzione immanente e praticamente determinante. Mentre Kant garantisce un livello minimo di conoscenza di Dio, sufficiente a fornire la certezza soggettiva della sua possibilità, Fichte sviluppa questo aspetto del criticismo, giungendo però ad identificare Dio con l'io incondizionato, dunque approdando ad un idealismo assoluto, diciamo così. La concezione di Dio come dotato dei suoi attributi tradizionali, secondo altri seguaci del criticismo, ha inoltre permesso a Kant di realizzare un accordo tra morale e religione che lo avrebbe portato ad una rivalutazione dello spirito morale del cristianesimo contro le tendenze più radicali dell'esegesi illuministica, e questa tesi fu sostenuta in particolare da Steudlin, appunto il teologo di Gottinga, al quale Kant aveva dedicato anche lo Streitbegriff der Fakultäten, che prese le difese della dottrina religiosa di Kant, mostrando però anche gli effetti negativi del criticismo e mettendo in guardia dai pericoli di un abuso di Kant nella teologia. Allora, i principali motivi... Quasi finito. Taglio. Ecco, perché qui altrimenti diventa finché la conferenza. Va bene, allora io taglio e vado alla fine. Finché una relazione. Allora, io farei questo... mi riferirò soltanto alle posizioni di Eberhardt e che rappresenta un po' la componente filosofica antikantiana, e a quella di Gabler del Neues Theologisches Journal, che rappresenta invece la componente teologica antikantiana. Vengo subito. Allora, per Eberhardt il principale difetto della filosofia critica consiste nella separazione di ragione pratica e teoretica, che ha portato alla scissione, resa radicale poi da Fichte, di un mondo sensibile e morale. Per Eberhardt esiste una sola ragione, che è un unico spirito morale che conosce nello stesso tempo il mondo fisico e quello morale. Eberhardt propone, come alternativa al criticismo, fondato sulla teoria di un mondo intellegibile, un realismo che unisca alla facoltà conoscitive separate da Kant. Dio non si manifesta all'uomo solo nel sentimento, ma anche nelle verità speculative. Queste ultime, più in generale i concetti, esercitano anzi un'azione educativa sullo stesso sentimento. Anche nella prova morale dell'esistenza di Dio, Eberhardt solleva contro Kant e Fichte diversi dubbi, limitando la possibilità di una dimostrazione dell'esistenza di Dio all'argomento morale e fondandola sui deboli postulati della ragion pratica. Secondo Eberhardt, Kant ha di fatto aperto la strada all'ateismo fichtiano, considerato da Eberhardt uno spinozismo rovesciato. Fichte fa di Dio, al contrario di Spinoza, una semplice modificazione dello spirito finito, giungendo molto al di là di Kant. Dunque la posizione di Eberhardt è di attacco a Kant, ma anche di difesa da queste conseguenze radicali in Fichte. Mentre, taglio ancora, la posizione dei teologi del nel Neues Theologisches Journal, che furono molto attivi nella disputa sull'ateismo contro Fichte, fu quella di una invece rifiuto totale della prova morale kantiana, recuperando invece la prova fisico-teologica soprattutto, e considerando questa la possibilità di compiere un'azione del genere su una rivista teologica come un atto di definitiva messa in discussione dell'autorità di Kant nel mondo filosofico, nel mondo accademico tedesco. Scusate per la dimensione.